soprattutto per la serata inaugurale, stanno già, per fortuna, andando a Roma. Bene, allora un saluto a Carlo Griseri, ricordiamo la quarta edizione del See You Sound a Torino dal 26 gennaio al 4 febbraio, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie, grazie per l'attenzione. A presto, ciao.